Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Non gli dispiacerebbe affatto a quei due essere presi sotto l'ala protettrice dei Lieberman e, come Brodsky, introdotti nel jet set. La prospettiva di diventare frequentatori abituali di quelle residenze nobiliari attenua l'impulso iniziale di Edouard, che era quello di appiccarvi il fuoco. Un contratto da modella per Tania, un libro di successo per lui, e il paternalista capitano Lieviting avrà pane per i suoi denti. In effetti, all'inizio le cose sembrano prendere la giusta piega. Ai Lieberman piace tutto ciò che è russo, la gioventù, l'impudenza, e si incapricciano di Edouard e Tania. In quella prima stagione li invitano ad altri party non meno sfarzosi, dove si incontrano Andy Warhol, Susan Sontag, Truman Capote, per non parlare dei congressmen di ogni fede politica. Un giorno Tatiana presenta Tania al grande fotografo Richard Avedon, che lascia alla ragazza il proprio biglietto da visita dicendole di chiamarlo. Un altro giorno a Salvador Dalí, che in un inglese elementare quasi quanto il suo le dice di essere rimasto affascinato da quel delizioso scheletrino. Di fatto Tania sembra quasi denutrita per quanto è magra e che vorrebbe farle un ritratto, forse in coppia con Grace Jones. Un weekend i Lieberman portano i due giovani sui sedili posteriori dell'auto come fossero i loro figli nella grande dimora che possiedono in Connecticut. Visitando lo studio in cui la figlia snob e depressa di Tatiana si dedica alla letteratura, Edouard si domanda quali libri possano mai venire alla luce in quell'ambiente così calmo, così confortevole e ai suoi occhi così morto. Per scrivere cose interessanti, pensa Edouard, bisogna innanzitutto vivere cose interessanti, conoscere le avversità, la povertà, la guerra. Ma sta bene attento a non dirlo e va giudiziosamente in estasi per il paesaggio, l'arredamento, le marmellate servite a colazione. Lui e Tania sono due giovani russi adorabili, due graziosi animali da compagnia, ed è ancora presto per uscire da ruolo. Edouard se ne accorge quando azzarda un'osservazione sul gusto per i riconoscimenti che Brodsky nasconde dietro la sua aria da studioso, sempre con la testa fra le nuvole. Tatiana lo interrompe inarcando un sopracciglio. Ha già superato il limite. Al ritorno dalla campagna, i Lieberman li riportano a casa in auto. Alex si rallegra perché i Limonov vivono come loro sulla Lexington. Allora siamo vicini, ma gli uni abitano all'altezza della Quinta Avenue, gli altri al numero 233, all'estremità meridionale di Manhattan. Fra le due zone c'è la stessa differenza che a Parigi tra l'Avenue Foch e la Goutte d'Or. La coppia di vecchi ricchi insiste per vedere l'alloggio della coppia di giovani poveri e trova incantevoli la minuscola stanza che dà su un cortile buio e la cucina bagno invasa da scarafaggi. Eppure, finanche il suscettibile Edouard non trova indecenti i loro commenti. Incoraggianti, piuttosto, perché i Lieberman hanno avuto inizi difficili, almeno Alex, il quale sembra sincero, forse pensa alla sua malinconica figliastra, quando ripete «Bene, bene, così si deve cominciare. Da giovani bisogna lottare ed essere affamati, altrimenti non si conclude nulla». Qualche giorno dopo fa recapitare loro un televisore perché possano migliorare più in fretta il loro inglese. Quando lo accendono, compare Solzhenitsyn, ospite unico della puntata speciale di un talk show. Uno dei migliori ricordi della vita di Edouard è quello di avere inculato Tania davanti alla televisione, alla faccia del profeta che arringava l'Occidente e ne stigmatizzava la decadenza. Il Rusko Yediela è un quotidiano in russo fondato nel 1912, un po' prima della Pravda, con la quale potrebbe essere confuso, tanto sono simili per formato e caratteri. I suoi uffici occupano un intero piano di un palazzo fatiscente, non lontano da Broadway, e benché questo magico nome faccia sognare Edouard fin dalla sua prima visita, sembra di stare in un tranquillo quartiere di una piccola città ucraina. Anche il mestiere di giornalista faceva sognare Edouard. Pensava a Hemingway, a Henry Miller, a Jack London, che in quel mestiere hanno mosso i primi passi, ma, come gli ha detto Brodsky, il modo in cui viene praticato al Rusko Yediela non si può dire che sia eccitante. Il lavoro di Edouard consiste nel tradurre e stilare una sintesi degli articoli dei giornali newyorkesi destinata a lettori russi scarsamente esigenti circa la freschezza delle notizie, tanto più che le ricevono per abbonamento con 3 giorni di ritardo. Oltre a questo surrogato di informazione, il sommario del giornale prevede un interminabile feuilleton intitolato «Il castello della principessa Tamara», ricette di cucina che sono più o meno tutte varianti della cascia e soprattutto lettere o articoli, il confine non è tracciato in modo chiaro, di grafomani anticomunisti. I redattori sono vecchi ebrei che portano le bretelle e parlano un inglese stentato, pur essendo trapiantati a New York da quasi 50 anni, dato che per la maggior parte sono emigrati subito dopo la rivoluzione. E il più anziano di loro ricorda persino, prima ancora, le visite di Trotsky al giornale. Lev Davidovich, racconta il vecchio a chi ha voglia di starlo a sentire, abitava nel Bronx e tirava a campare tenendo conferenze sulla rivoluzione mondiale davanti a quattro gatti. I camerieri delle trattorie dove andava a mangiare lo odiavano perché Trotsky riteneva offensivo per la loro dignità lasciare mance. Nel 1917 acquistò mobili a rate per un totale di $200, poi scomparve senza lasciare un recapito. E quando la società di recupero crediti ne ritrovò le tracce, era capo dell'esercito del paese più grande del mondo. Benché gli abbiano ripetuto per tutta la sua infanzia che Trotsky era il nemico dell'umanità, Edouard va pazzo per quel destino spettacolare. Gli piace anche ascoltare Porfiri, un ucraino più giovane che ha cominciato la guerra nell'Armata Rossa, poi è passato con l'armata di Blasov, cioè con i russi bianchi che combattevano al fianco dei nazisti, e l'ha terminata come guardia in un campo in Pomerania. Un piccolo stalag simpatico, precisa, non un campo di sterminio. Comunque ha ucciso degli uomini e ne parla senza vantarsene. Un giorno Edouard gli confessa che non è sicuro di esserne capace. «Ma come no?» lo rassicura Porfiri. «Quando non avrai altra scelta lo farai, come tutti, non preoccuparti». L'atmosfera al Ruskoye Dielo è quieta, polverosa, molto russa. Caffè al mattino, tè molto zuccherato a tutte le ore e più o meno un giorno sì e uno no un compleanno che permette di tirare fuori i cetriolini marinati, la vodka e il cognac Napoleon, snobistica prerogativa dei linotipisti. Ci si chiama a vicenda mio caro e Edouard Veniaminovich, lungo come la quaresima. È, insomma, un luogo caldo e rassicurante per chi è appena arrivato e non parla inglese. Ma anche l'anticamera della fine, in cui sono naufragate le aspettative di chi è venuto in America credendo che lo attendesse una vita nuova ed è rimasto impaniato in quell'accogliente tepore, in quei meschini battibecchi, in quelle nostalgie e in quelle vane speranze di un ritorno in patria. La bestia nera di tutti loro, più ancora dei bolscevichi, è Nabokov. Non tanto perché Lolita li abbia scandalizzati, beh, un po' sì, quanto perché Nabokov non scrive più romanzi di esuli per esuli, ha voltato le sue larghe spalle al loro piccolo mondo stantio. Per odio di classe e disprezzo nei confronti della letteratura per letterati, Edouard non ama certo Nabokov più di loro, ma per niente al mondo vorrebbe odiarlo per le loro stesse ragioni, né perdere il suo tempo fra quei muri che puzzano di morte e piscio di gatto. Per farsi conoscere, uno scrittore può, grosso modo, scegliere tra inventare storie, raccontarne di vere o dare la propria opinione su come va il mondo. Edouard non ha nessuna fantasia. Le cronache che cerca di piazzare sui delinquenti di Kharkov e l'underground moscovita non interessano a nessuno, e i versi poi men che meno. Rimane la carriera di polemista. L'assegnazione del premio Nobel per la pace a Sakharov offre a Edouard l'occasione per fare il suo esordio. Da qualche anno il grande fisico, padre della bomba all'idrogeno sovietica, si è avvicinato alle posizioni dei dissidenti e si è schierato pubblicamente per il rispetto degli accordi di Helsinki, vale a dire dei diritti umani nel proprio paese. Non c'è testimonianza su Andrei Sakharov che non lo descriva come un uomo di irreprensibile rigore intellettuale e di una integrità morale ai limiti della santità. E non c'è nessun motivo per non crederci. Ma al punto in cui siamo arrivati non c'è più nemmeno nessun motivo di stupirsi che questo eroe senza macchia dia sui nervi a Edouard, il quale si chiude in casa 2 giorni per spiegare in tono rabbioso e brillante che i dissidenti non hanno nessun rapporto con il popolo, rappresentano solo se stessi e nel caso di Sakharov gli interessi della propria casta, l'altra nomenclatura scientifica. Che se per caso arrivassero al potere, loro personalmente, o i politici influenzati dalle loro idee, sarebbe una catastrofe molto peggiore dell'attuale burocrazia. Che la vita in Unione Sovietica è certamente grigia e noiosa, ma non è quel campo di concentramento che raccontano loro. E per finire, che l'Occidente non è meglio dell'Unione Sovietica e che quanti l'abbandonano, aizzati contro il proprio paese da quegli irresponsabili, sono vittime di una crudele presa in giro, perché la triste verità è che in America nessuno ha bisogno di loro. Qui Edouard parla per se stesso. Esprime i propri timori dopo 6 mesi passati a marcire al Rusko Jediela e a fare la comparsa ai margini del jet set. La fiduciosa euforia dell'arrivo è evaporata. E non a caso il suo articolo si intitola Disillusione. Viene rifiutato dal New York Times e da parecchi altri prestigiosi giornali, o meglio, il New York Times e gli altri prestigiosi giornali non ne accusano nemmeno ricevuta. E finisce per essere pubblicato su un'oscura rivista più di 2 mesi dopo l'avvenimento che ne è stato lo spunto. Il che significa che passa inosservato presso il pubblico a cui mirava, gli editorialisti di punta e gli opinion maker newyorkesi. In compenso, mette in agitazione la ristretta cerchia degli esuli. Turba il dolce torpore del Rusko Jediela. Anche quanti ammettono che l'analisi contiene una parte di verità, ritengono inopportuno sbandierarla ai 4:20. Non si fa il gioco dei comunisti in quel modo. Un mattino, il caporedattore Maisiej Baradatych convoca Edouard. Con un indice tremante di indignazione, gli mostra un giornale aperto sulla propria scrivania. Edouard si china. La sua foto occupa mezza pagina. È una vecchia foto scattata a Mosca, anche se lo raffigura ai piedi di un grattacielo newyorkese. Il giornale, sovietico, è la Komsomolskaya Pravda. E sotto il fotomontaggio annuncia: il poeta Limonov dice tutta la verità su dissidenti ed esuli. Edouard scorre l'articolo. Alza la testa con un sorriso un po' seccato e un po' rassegnato, cercando di prenderla sul ridere. Maisiej Baradatych non la prende affatto sul ridere. Dopo un istante di silenzio scandisce: in giro si dice che tu sia un agente del KGB. Edouard fa spallucce. È una domanda? Esce dall'ufficio senza aspettare di essere messo alla porta. Nelle avversità è una consolazione essere in due, ma Edouard e Tania lo sono sempre di meno. Tania gli sta sfuggendo. Persuasa dalle profezie di Lily Brick, ha creduto che sarebbe diventata una modella famosa, ma Alex Lieberman, che con una sola parola potrebbe aprirle le porte di Vogue, quella parola non la pronuncia mai e si limita a complimentarsi per la sua bellezza in modo tanto galante da sembrare alla lunga un maniaco. I collaboratori di Avedon e di Dalì non la richiamano. Tania scopre l'umiliante condizione di proletaria di lusso. Per presentarsi alle agenzie bisogna avere un book, e la giovane e bella sconosciuta che ha bisogno di un book è evidentemente preda del primo puttaniere che si spacci per fotografo. Sempre più spesso Tania è fuori quando Edouard rincasa la sera. Gli telefona per dirgli di cenare senza di lei perché la seduta fotografica non è ancora terminata. Edouard sente della musica nella stanza da cui lei lo sta chiamando, le chiede se tornerà presto. Sì, sì, presto. Presto significa raramente prima delle 2 o delle 3 del mattino. E allora Tania è stanca morta, si lamenta perché ha bevuto troppo champagne e sniffato troppa coca, con il tono irritato di chi dica «lavoro io». È inverno, in casa loro fa freddo. Tania si corica con tutti i vestiti addosso e vuole che Edouard la tenga fra le braccia mentre si addormenta, ma non ha più la forza di fare l'amore. Russa e ha sempre il naso chiuso. Nel sogno si disegnano sul suo volto piccoli spasmi di contrarietà e lui resta sveglio fino all'alba a torturarsi pensando che non ha i mezzi per tenersi una donna così bella, che lei lo lascerà come lui ha lasciato Anna perché sul mercato c'è di meglio. È inevitabile, è la regola. Al suo posto lui farebbe lo stesso. Edouard la interroga, lei svicola. Lui vuole parlare, lei sospira, ma di che cosa vuoi parlare? Quando Edouard le confessa le sue inquietudini, Tania gli risponde con un'alzata di spalle che è troppo serio. È quello il problema con lui. Che cosa vuol dire troppo serio? Troppo innamorato di te? No, vuol dire che non sa divertirsi, che non sa godersi la vita. E mentre dice queste cose, la sua bocca prende una piega così amara che Edouard la spinge davanti allo specchio del bagno e dice: guardati, ti stai godendo la vita tu? Ti sembra di avere l'aria di una che si diverte? Come vuoi che mi diverta con te, risponde lei. Mi fai sempre delle scenate. Mi interroghi come fossi uno del KGB. Una scenata dopo l'altra, un interrogatorio dopo l'altro, Tania finisce per sputare il rospo. Come tutte le donne in simili situazioni, cerca dapprima di dire il meno possibile. Che importanza può avere chi è? Ma Edouard non desiste, finché non viene a sapere che l'altro si chiama Jean-Pierre. Francese, sì. Fotografo. 45 anni. Bello? Non proprio. Calvo, con la barba. Un loft che dà su Spring Street. Non straricco, no, non una superstar della sua professione, ma a lui sta bene. Un adulto, insomma. Non un piccolo straccione ucraino che accusa il mondo dei suoi fallimenti e non fa altro che tenere il broncio e piangere. È così che adesso lo vede lei. E infatti, Edouard piange. Edouard, l'osso duro, piange, come nella canzone di Jacques Brel, è disposto a diventare l'ombra della sua mano, l'ombra del suo cane, purché Tania non lo lasci. «Ma io non voglio lasciarti», dice lei, commossa dalla sua profonda sofferenza. Edouard si riprende. «Allora tutto andrà bene. Finché restano insieme, tutto andrà bene. Tania può avere un amante, non è una cosa grave. Può fare la puttana, lui, Edouard, sarà il suo ruffiano. Sarà eccitante, un altro episodio eccitante fra i tanti della loro vita di avventurieri, libertini, ma inseparabili». Edouard è entusiasta del patto. Per festeggiarlo apre una bottiglia di champagne. Sollevata, Tania sorride e dice «Sì, sì», evasiva. Quella notte fanno l'amore e si addormentano stremati. Nei giorni successivi Edouard, che non deve più andare in ufficio, ha una sola ossessione. Restare chiuso in casa con lei, non uscire dal letto, non smettere di scoparla. Si sente al sicuro soltanto dentro di lei, è la sua unica terraferma. Attorno sabbie mobili. L'erezione dura 3 o 4 ore di fila. Non gli serve neanche più il fallo di gomma che spesso dava il cambio al suo cazzo per assicurare a Tania quegli interminabili orgasmi multipli che erano la gioia di entrambi. Edouard tiene il viso di Tania fra le mani, la guarda, le chiede di tenere gli occhi aperti. Lei li spalanca e lui ci vede amore, ma anche spavento. Dopo Tania, sfinita, stravolta, si gira sul fianco. Edouard vuole prenderla ancora, lei lo respinge. Con voce assonnata dice di no, non ce la fa più, le fa male la fica. Edouard precipita di nuovo in fondo a un pozzo, abbandonato. Si alza, va in quella specie di sgabuzzino che serve insieme da cucina, bagno e cesso. Sotto la lampadina gialla si mette a frugare nel cesto della biancheria sporca e ne tira fuori uno slip di Tania. Lo annusa, lo gratta con un'unghia alla ricerca delle tracce di sperma dell'altro uomo. Si masturba con lo slip a lungo, senza arrivare al piacere, poi torna a letto. Le lenzuola puzzano di sudore, di angoscia e del pessimo vino che hanno rovesciato bevendo a canna. Appoggiato su un gomito, guarda il corpo raggomitolato, bianco e magro, della donna che ama, i seni piccoli e appuntiti, i grossi calzini all'estremità delle sue lunghe cosce da rana. Tania si lamenta perché ha una cattiva circolazione e i piedi sempre gelati. A Edouard piaceva tanto prenderli fra le mani e strofinarli piano piano per riscaldarli. Quanto l'ha amata, quanto l'ha trovata bella, è davvero così bella. Quella vecchia vipera, Lily Brick, non l'avrà presa crudelmente in giro, facendole credere che in Occidente sarebbero caduti tutti ai suoi piedi. Una ragione deve esserci se Alex Lieberman non fa niente per lei, se le agenzie non la richiamano. E la ragione balza agli occhi quando si guardano le foto del suo book. Una bella ragazza, certo, ma di una bellezza goffa, provinciale. Poteva abbagliare Mosca, ma Mosca è appunto la provincia. Quando ci si rende conto di questo, diventa patetico il contrasto fra le sue smorfie da femme fatale e la reale condizione di aspirante modella che non avrà mai successo e si fa sbattere da fotografi di terz'ordine. È una cosa che ora a Edouard sembra chiara, e vuole svegliare Tania per dirgliela. Si prepara le frasi più crudeli, e più sono crudeli più gli sembrano lucide. Edouard ne ricava una gioia dolorosa e allo stesso tempo si sente invadere da un'immensa ondata di pietà. Vede una ragazzina spaventata e infelice. Vorrebbe proteggerla, riportarla a casa, da dove non sarebbero mai dovuti partire. E i suoi occhi si girano a guardare l'icona che, come tutti i russi, anche miscredenti, lui e Tania hanno appeso in un angolo di quella stanza squallida, perduta in terra straniera. E gli sembra che la Vergine, che tiene sul seno un bambin Gesù dalla testa troppo grande, li fissi con aria triste, che le lacrime le scorrano sulle guance, e Edouard la supplica, senza crederci, di salvarli entrambi.